campestri organizzati dalla scuola. Festa degli alberi a farla su. Sì, anche a qualche festa degli alberi si faceva. Beh, ma mica nevo, non era mica le corriere, le macchine che adesso, che arriva in Castelna e veniva col treno, mica che da Verzevo la porta che ero su con la vacca pascolare, l'era sempre tedeschi in generale, che veniva a vedere Castelna. E veniva, se era su, che da Verzeva, se non era nessuno, l'era chiusa a chiave, che aveva la chiave, noi del castello, nei Budesiani, noi del castello. Ecco, dopo che mio papà era in via di famiglia. Ecco, e batteva con il sasso alla porta, perché la porta era tutta in ferro, né? Si batteva col sasso alla porta e venivo da verso della porta. Se ero fuori in campagna vicino alla porta, se no mi ero dentro per il castello. Ma in generale era sempre tedesche che veniva. E quella signora proprio che la neva sua le quattro stagioni, né? Si, a vedere le quattro stagioni che godì. L'era tedesca, qualche parola che diceva che era pericolo, nassù, insomma, la sacciapada a Sesomli, ai rami per nassù, e la sa tira fuori l'anello dalle mamme, la sa tira fuori l'anello di oro, e che premeva perché la mi fa capire che l'era ricordo. Ecco, qualche parola, la saiva, qualche parola la capiva. Beh, e la mi ha detto, guardi, non gli do né il mio nome né il mio indirizzo, lei lo cerca, se lo tenga per ricordo. Ho voltato tutti i sassi e tutti i copi che era lì, mi non so che busche le nate. Ecco, no? Sì, guarda. Ho sempre in mente quella volta, perché era una sola di quattro stagioni, non era più scalini, no, nessuno, la scala, no. Era anche un scivolo lì che ne va su, mi ricordo. E lì la sacciapada la sa tira fuori l'anello. Guarda che, ti dico, anche l'ho cercato quell'anello lì, ma mi non è più da fuori, l'avevo trovato qui che fa la pulizia. E dopo Castel e anche la data la provincia, provinciale, il Castello.